Questa è la storia di Bambi. Se vuoi, puoi leggere questo libro assieme a me. Quando sentirai suonare un campanellino così, dovrai voltare pagina. Ed ora vogliamo cominciare? Era un bel giorno di primavera. Tutti gli abitanti del bosco avevano appena appreso la grande notizia ed erano eccitatissimi. Avete sentito quello che è accaduto? Sì, proprio nel boschetto. Andiamo a vedere. La gazza volò dal vecchio gufo che stava schiacciando il suo pisolino quotidiano. Svegliati, fratello gufo! Il principino è nato! Andiamo, è meglio affrettarsi! Dovete sapere che il gufo, quando si svegliava, preferiva di solito starsene in casa per un po' a non far niente. Ma quel giorno, appena saputa la grande notizia, si svegliò di colpo e prese il volo verso il boschetto. Dopotutto, un principino non nasce tutti i giorni, pensò. Come la dolce melodia che ti carezza il cuore. Quanta gioia può darti l'amore, quanta felicità. Quando gli animali raggiunsero l'ombrosa radura, videro il principino dei cervi reali dormire accanto alla sua mamma. Accarezzando dolcemente il suo fragile cucciolo, gli sussurrava: svegliati, caro, ci sono visite. Il cerbiatto aprì lentamente gli occhioni, poi si rizzò sulle esili zampette ancora incerte e si guardò intorno, curioso di vedere le creature che erano accorse per salutarlo. Un simpatico coniglietto di nome Tippete saltellò verso mamma cerva. Come lo chiamerai? Le domandò. Bambi, rispose la mamma, continuando ad ammirare il suo bellissimo cucciolo. Bambi, che bel nome! Poi Tippete e gli altri animali, temendo di stancare troppo il piccolino con la loro presenza, saltellando e galoppando se ne andarono, lasciando il neonato principe a sonnecchiare. Quando arrivò l'estate, Bambi era ormai abbastanza forte per poter esplorare la foresta assieme alla sua mamma. Una mattina essa gli disse: andiamo, Bambi, è tempo per te di conoscere che cosa c'è oltre il boschetto. Il cerbiattino, saldo sulle zampe, seguì la madre fuori della radura, felice di scoprire un mondo per lui sconosciuto. Salve, principino! Lo salutò un coro di voci provenienti dall'alto di un albero. Bambi guardò in su e vide un gruppo di opossum, i quali se ne stavano appesi a un ramo per la coda, come era loro abitudine. Ma chi mai li avrà messi sotto sopra? Pensò Bambi e rigirò la testa, tentando di farsi un'idea più precisa di quei buffi animali. Un'altra voce vicinissima lo chiamò. Ciao, Bambi! Era Tippete, che se ne stava con la sua famigliola a mangiare il tenero trifoglio del prato. Andiamo a giocare, ti va? Suggerì il coniglietto. Sembrava una buona idea, così Bambi trotterellò dietro al simpatico coniglietto. I due amici incontrarono alcuni uccellini appollaiati su di un ramo. Bambi li fissò incuriosito. Questi sono uccellini, gli spiegò Tippete. Ripeti, uccellini. Bambi tirò un profondo respiro e... uccellini, esclamò. Tippete si mise a saltellare dalla gioia. Ha parlato! Il principino sa già parlare! Subito dopo una farfalla si posò sulla coda di Bambi. Uccellino! Disse il cerbiatto orgoglioso di se stesso. Tippete ridacchiò divertito. Non è un uccellino, quella è una farfalla, Bambi. Bambi sgranò gli occhi tutto confuso. Poi si accorse di altre piccole coloratissime cose intorno a lui. Chinandosi, ne annusò una. Farfalla! Esclamò allora. Tippete, sorridendo, lo corresse ancora una volta. No, Bambi, quelli sono fiori. Ti piacciono? Proprio in quel momento, sbucò fuori dal cespuglio di fiori un musetto bianco e nero, con due occhietti brillanti. Bel fiorellino! Disse Bambi soddisfatto. Nessuno aveva mai chiamato così la puzzola prima di allora. Tippete si rotolava dalle risate. Infine, riavutasi dalla sorpresa di essere stata scambiata per un fiore, anche la puzzola sorrise. Oh, va bene così, può chiamarmi fiore quando vuole, non importa, non me ne ho a male. Nella tarda estate, mamma Cerva condusse Bambi nella prateria. Essa si muoveva con precauzione, annusando il vento. Devi stare molto attento nella prateria, Bambi. Qui noi siamo indifesi. Non ci sono alberi per nasconderci. Insegnava pazientemente al figlioletto. Quando si sentì al sicuro, mamma Cerva lasciò che Bambi uscisse da solo verso la grande e verde prateria. Un giorno, il principino rimase sorpreso incontrando una cerviattina della sua età. Il suo nome era Occhi Dolci e ben presto lei e Bambi diventarono grandissimi amici. Una tiepida giornata d'autunno, mentre Bambi e i suoi amici stavano giocando nella prateria, un possente cervo balzò fuori dagli alberi. Era il re della foresta e avvertì di lasciare immediatamente quel posto. Erano tutti in pericolo. Infatti, in lontananza, Bambi udì il cupo terrificante crepitio dei fucili. Subito il cerbiatto, assieme alla mamma, si mise al sicuro nel boschetto. Era terrorizzato. Quando tutto tornò di nuovo tranquillo, Bambi domandò: Mamma, non capisco. Perché siamo fuggiti? Che cos'era quel rumore che si sentiva in lontananza? Mamma Cerva stava ancora guardando attentamente il sentiero che portava alla prateria. Poi si rivolse al figliolo. L'uomo era nella foresta. Egli è nostro nemico, Bambi, e ci dà la caccia con il suo fucile. Erano spari, quelli che hai udito poco fa. Devi fuggire quando incontri l'uomo. Una fredda mattina, Bambi si svegliò e rimase sbalordito. Mamma, che cos'è tutta questa roba bianca? Questa è la neve, caro Bambi. L'inverno è ormai arrivato anche nella foresta. Il cerbiatto camminò piano piano fuori del bosco e con sua grande sorpresa si accorse che le zampe affondavano profondamente nel bianco soffice manto. Egli era felice di giocare sulla neve. Saltellava nell'aria gelida, lasciando le sue impronte sul candido terreno. Dallo stagno vicino, Pippete lo chiamò. Vieni, Bambi, vieni qui sopra l'acqua. Vedi, è diventata dura. È ghiacciata. Bambi trotterellò fiducioso sullo stagno ghiacciato per raggiungere l'amico. Ma non appena toccò il ghiaccio, le sue sottili zampe scivolarono e cadde rovinosamente. Oh, Pippete rideva a crepapelle. Fa attenzione, devi muovere le zampe contemporaneamente. Bambi sbatté le palpebre, si rialzò attentamente e scivolò attraverso il ghiaccio fino a raggiungere Pippete. Non è divertente, Bambi? Gli domandò il coniglietto. Per tutto il giorno giocarono insieme allegramente. Ma con il freddo dell'inverno il cibo cominciò a scarseggiare e mamma Cerva fu costretta a uscire fuori del bosco per trovare qualcosa da mangiare per sé e per il figliolo. È lungo l'inverno, mamma? Domandava spesso Bambi. Sembra lungo, tesoro, ma la primavera arriverà presto, vedrai. Lo rincuorava la mamma. A poco, la neve cominciò a sciogliersi e la primavera infine arrivò. Il gufo si svegliò dal suo sonno e quando vide Bambi, esclamò pieno di meraviglia. Mio Dio, ma non è il giovane principe questo? Come sei bello e come sei cresciuto! Hai messo su anche due belle corna. Ma il gufo non era il solo ad ammirare le ricurve corna di Bambi. Anche la sua amica d'infanzia Occhi Dolci lo trovava affascinante. Era cresciuta anche lei ed era diventata una deliziosa cerbiatta. Un giorno si avvicinò a Bambi e gli sfiorò delicatamente il muso. Il gufo aveva già messo in guardia il giovane cervo su queste cose, ma Bambi si innamorò subito di Occhi Dolci. Io canto per te questa mia melodia, che ti dice sei mia e la vita sei per me. Io canto per te dal profondo del cuore, non sfuggirmi perché voglio solo il tuo amore. Io canto per te e felice sarò. Fanno che amoreggiare quei due. Borbottava il vecchio gufo quando vedeva Bambi e Occhi Dolci passeggiare vicini vicini al chiaro di luna. I mesi passavano lenti e giunse nuovamente il tempo della caccia. L'uomo ritornò nella foresta, portando con sé il fuoco e il fucile. Un giorno Bambi si accorse che qualcosa non andava. Lasciò Occhi Dolci e salì sulla cima della collina. Guardando giù, vide un accampamento e, come aveva previsto, si rese conto che il fuoco del campo stava attaccando i cespugli e si propagava rapidamente. Corse allora ad avvertire Occhi Dolci e gli altri animali e tutti fuggirono via dal bosco. Gli scoiattoli scendevano giù dagli alberi, le talpe uscivano dalle loro tane e gli uccelli dai nidi. Bambi e Occhi Dolci raggiunsero gli altri abitanti del bosco sull'opposta riva del fiume. Tutti guardavano tristemente le fiamme distruggere le loro case. Ma la primavera arrivò di nuovo e la verde erbetta e i teneri fiori ricoprirono la terra arsa dal fuoco. Ancora una volta c'era un certo fermento nell'aria. Fu proprio l'amico gufo a dare la grande notizia. Venite presto, accorrete tutti nel boschetto, presto! E le creature del bosco, dagli uccellini alla simpatica puzzola, dagli scoiattoli al tasso e alla talpa, tutti in gruppo andarono a vedere cosa era accaduto. Occhi Dolci riposava quietamente accanto ai suoi due cerbiattini. Il gufo spalancò i suoi grandi occhi gialli per la sorpresa. Guardate! Sono due gemelli e i più vispi che abbia mai visto. Il principe Bambi può esserne veramente orgoglioso. Conigli e scoiattoli, tassi, talpe, marmotte e uccellini ammiravano estasiati i due neonati. Uno dei due cerbiattini si rizzò sulle esili zampette, trotterellò attraverso una radura in mezzo agli alberi e guardò su, in alto, verso la cima della montagna. Lassù, immobile, maestoso, stava Bambi, suo padre, diventato ora il re della foresta. Anche questo principino appena nato crescerà e un giorno diventerà re, proprio come suo padre.